Abbiamo incontrato Fagioli, che proprio in questi giorni pubblica uno dei suoi libri anche in Germania. Professor Fagioli, Rai Internazionale si rivolge in primo luogo agli italiani che vivono all'estero, a quanti fuori dai nostri confini amano comunque la cultura italiana. In questi giorni viene tradotto in tedesco, pubblicato in Germania il suo libro più famoso, Istinto di morte e conoscenza, che è uscito in Italia con l'Asino d'Oro. Cosa significa per lei arrivare al mercato in lingua tedesca? Ah, significa mille cose. Dopo 40 anni che l'ho scritto, e chiaramente 40 anni in Italia, le reazioni non sono state molto entusiaste, per essere eufemistici. Adesso, per merito di questi tre grandi traduttori, probabilmente c'è questa apertura, sembra che sia un'apertura culturale, sembra che la gente stufa di pensare che il bambino sia un pazzo criminale, che noi esseri umani nasciamo come pazzi criminali, assassini, animali, bestie, insomma cose di questo genere. Che è l'ideologia che va dalla Bibbia con Caino al Logos occidentale con Platone. E probabilmente in Germania c'è un'apertura maggiore, una possibilità maggiore di pensare, ecco quello che è uscito l'ultimo libro, Il pensiero nuovo. Ecco, andiamo subito allora al pensiero nuovo che è uscito sempre presso l'Asino d'Oro e che raccoglie le lezioni che lei ha tenuto all'Università di Chieti e Pescara nell'anno accademico 2003-2004. Esatto. Al centro di questo libro c'è il concetto dell'inconscio, das Unbewusste in tedesco, che secondo lei ci tiene a sottolineare, non è l'inconoscibile per eccellenza, come pensato da diversi pensatori, secondo lei anche da Freud, ma quello che ancora non è conosciuto. Ce lo vuole spiegare in termini semplici? Le origini della ricerca si legano a certi termini tedeschi che in italiano non ci sono. E dunque adesso che faccio tutto l'elenco perché sono tanti. Però nella lingua tedesca c'erano di Fernheinung la negazione, che invece non è stata mai presa in considerazione, è una parola a cui non è stata mai data la sua identità, perché è stata sempre confusa con il rifiuto, con il no. Invece è una cosa assolutamente diversa che riguarda le immagini interne deformate, il discorso dell'inconscio. Il Das Unbewusste è proprio questa tragica storia per cui dal Caino, dall'inconscio perfetto, dall'inconscio bestia, si è passato con l'illuminismo fino a Schelling, 1800, a tirare fuori questa parola, che è appunto non cosa non conosciuta. E quindi ovviamente da cercare, da conoscere, da rendersi conto. Ma inconoscibile. E sotto il tasto industria. In tedesco ha un significato più profondo, che non è tanto inconoscibile, quanto è qualcosa di spirituale. È qualcosa che la ragione non ha motivo di pensare, non ha motivo di affrontare, perché è una cosa che riguarda la fede. Dunque, se non possiamo avvicinarci con la ragione a questo territorio, ma dobbiamo avvicinarci in un altro modo, in che modo possiamo avvicinarci? E facendo quello che ho fatto io, cioè trovare un'altra identità. Nell'inconscio non c'è la bestia, se c'è la bestia è malattia, ma la nascita, ecco, la teoria della nascita, la nascita umana, non è poi come dicono e come dicevo Russo, buona o cattiva, eccetera, eccetera. No, ma è fisiologica, per cui non si nasce malati e non si nasce animali perché siamo esseri umani. E lì c'è la grande idea della nascita del pensiero dalla realtà biologica. L'emergenza della pulsione, che fusa alla vitalità, fa la prima realizzazione del pensiero umano, che è fantasia di sparizione, che ha la dimensione di creatività. I sogni in che modo possono aiutarci a conoscere anche questo territorio? È la strada fondamentale, perché quello è il uno, bisogna riconoscere che non è bestialità. E io accuso la filosofia di non aver mai preso in considerazione questo pensiero della notte, che occupa un terzo della giornata e quindi 33 anni di vita, un terzo di tutta la vita umana sta nel sonno e nel pensiero dei sogni. Il pensiero dei sogni è un pensiero per immagini, silenzioso, non c'è parola, non c'è linguaggio articolato. E bisogna leggere e saper leggere queste immagini. In che modo l'arte ci può avvicinare alla comprensione? L'arte è questo. Bisogna stranamente. L'identità umana, in particolare, non è soltanto ragione. Io ho una storia dai tempi delle caverne in cui, diciamo, le donne dipingevano sui muri, che diversamente dagli animali, c'ha l'arte l'essere umano. Cioè c'ha questa rappresentazione, questo linguaggio di immagini senza parola. È una cosa grave, che non prende in considerazione nemmeno gli illuministi, i positivisti, gli scienziati, che vanno a fare esperimenti sulla mente umana, sui sorci. Io mi domando come si fa a portare quello che accade in un sorcio nel cervello, un sorcio, alla realtà umana. La realtà umana è completamente diversa perché appunto c'è l'arte che tra le sue radici e la sua espressione in questo pensiero senza coscienza, pensiero della notte, in cui l'artista riesce a realizzare nella veglia come se fosse un sogno. L'artista non riesce a rappresentare una cosa che poi va interpretata, appunto, e non ci si riesce mai. Però in qualche modo rinunciando all'idea di una interpretazione, cioè di riportare alla logica, alla ragione come la conosciamo, l'opera d'arte, comunque frequentare le opere d'arte può aiutarci a comprendere in senso più ampio qualcosa di noi. Ah, ma certamente sì, bisogna trovare in noi stessi questa sensibilità per questo linguaggio che non è il linguaggio articolato razionale della veglia. Questo che è il linguaggio è articolato, quello che stiamo usando noi della veglia razionale, serve per la sopravvivenza, serve per evitare i danni al corpo, eccetera, eccetera. Nell'uomo c'è un'altra cosa che sarebbe inutile per la sopravvivenza, però c'è e non si può far finta che non ci sia, per cui occuparsi soltanto della coscienza, del pensiero della coscienza e dire che l'uomo è razionale. No, l'uomo non è soltanto razionale, razionale è solo per una parte che poi è minima. Se riusciamo a raggiungere un livello di sopravvivenza decente, senza sofferenza del corpo, con tanto di caldo, tanto di cibi, tanto di vestiti, eccetera, eccetera, ci si può lasciare andare a questa identità, trovare questa identità, che è un'identità, io la chiamo io razionale. Bene, noi ringraziamo il professor Massimo Fagioli, ricordiamo il suo ultimo libro, Il pensiero nuovo, pubblicato dall'Asino d'Oro. Grazie Grazie. a voi. Avete ascoltato